torna con la sua 10ª edizione Equilibri Festival, il festival internazionale di circo contemporaneo, e io sono qui per parlarne con Agnese Valentini, volontaria di Arte Rego. Buongiorno Agnese. Buongiorno. Allora Agnese, parliamo un po' di questo grandissimo festival che sarà dal 20 al 29 maggio a Casalecchio di Reno per 9 giorni di programmazione veramente ricchissima. Ti va di parlarci un po' del programma appunto? Certo, allora sì, appunto Equilibri Festival celebra quest'anno la sua 10ª edizione finalmente dopo 2 anni di attesa. E quest'anno ci saranno 15 spettacoli diversi tra loro, 2 concerti, 2 laboratori di circo, e sarà una programmazione di 9 giorni a Casa delle Acque, Casalecchio di Reno, in cui appunto ci saranno spettacoli di circo contemporaneo, di teatro di strada, ci saranno laboratori per bambini e soprattutto il fiore all'occhiello di Arte Rego è il galà di circo contemporaneo, dove verranno 7 artisti nazionali e internazionali da tutta Europa e faranno uno spettacolo unico per quella serata. A proposito di spettacoli unici, ce n'è uno in questa programmazione veramente ricchissima, appunto come dicevo prima, che mi ha colpito particolarmente ed è quello dedicato a Mago Presente. Ti va di raccontarci qualcosa di più su questo spettacolo in specifico? Certo. Questa è una serata a cui Arte Rego tiene molto, appunto per Mago, che era una nostra amica che 2 anni fa è stata violentata e uccisa in Brasile, e quindi abbiamo deciso di ricordarla e toccare un tema molto importante per tutti noi e per la nostra società attraverso l'arte. Quindi l'arte diventa un canale per parlare appunto anche di temi politici, di temi sociali e soprattutto per riportare l'energia che ci ha dato Mago quando l'abbiamo conosciuta. A proposito di temi politici, temi sociali, anche quest'anno il festival sarà aperto e accessibile a tutti, anche proprio da un punto di vista economico, ecco, concreto. Sì, questa è una scelta che Arte Rego e soprattutto Equilibri continua a portare avanti ed è un punto fondamentale per noi che ci piace mantenere negli anni, ovvero l'offerta libera, in modo che non ci siano limiti o barriere economiche, e anzi che ci sia anche uno scambio tra le persone. Ci sarà chi potrà mettere meno e chi potrà mettere di più, ma si partecipa tutti assieme. Perfetto, Agnese, direi che non ci rimane che parlare un po' di fattori pratici, ecco, quindi bisognerà prenotarsi per partecipare agli eventi, qualche info pratica appunto. Sì, è consigliata la prenotazione e si può fare appunto telefonando dalle 3 alle 7 al numero 353-4098-322 e non leggiamo SMS o WhatsApp, oppure andando sul sito www.arterego.org e lì si può prenotare online attraverso Eventbrite. Perfetto, vogliamo ricordare anche magari i canali social su cui i nostri ascoltatori e ascoltatrici possono seguire l'evento da vicino. C'è la pagina Facebook di Equilibri e la pagina Instagram di Arte Rego, in cui ci sono tutte le informazioni, anzi potete anche vedere come sta andando avanti il montaggio della tenda da circo e conoscere un po' chi siamo. Perfetto Agnese, io ti ringrazio veramente, ricordo ancora una volta dal 20 al 29 maggio a Casalecchio di Reno Equilibri Festival. Grazie ancora Agnese per avercene parlato. Grazie mille a te.